Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Si voterà per il nucleare, la Cassazione ha deciso all'unanimità. 12 miliardi di euro il fatturato delle ecomafie, arrestato poco fa Angelo Dario Scotti, vicepresidente di Riso Scotti Energia. La Lega avvia una raccolta di firme per un referendum per trasferire i ministeri al nord. Santoro non parla e annuncia, dirò tutto ad anno zero. Calcio scommesse, torna davanti ai giudici Marco Pirani, Serie B e Lega Pro si costituiscono parte offesa. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Cominciamo allora dalla notizia, l'avete sentita nella nostra breaking news di pochi istanti fa. Sembra dunque che si voterà per il referendum sul nucleare. Simone Spezia. Sì, buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. Dunque la Corte Costituzionale ha deciso, e questo naturalmente ancora secondo indiscrezioni, non c'è ancora l'ufficialità, e ha dato il via libera al nuovo quesito sul nucleare, così come era stato riformulato il primo giugno scorso dalla Cassazione dopo le modifiche che erano state introdotte dal cosiddetto decreto omnibus. Dunque non si voterà su quello che era il quesito iniziale, ossia la reintroduzione vera e propria del programma nucleare, ma si voterà sul decreto omnibus, in particolare i commi 1 e 8 dell'articolo 5, che riguardano appunto la verifica tecnica sulle nuove evidenze scientifiche sulla sicurezza dopo la vicenda di Fukushima, e poi sul comma numero 8 che parla invece della nuova strategia energetica che il governo dovrebbe adottare entro 12 mesi. Si voterà su questo dunque il 12 e 13 giugno, così come si voterà sui due referendum sull'acqua e sul legittimo impedimento. Da notare sul nucleare che persiste un problema, ossia il fatto che ci sono 3 milioni di italiani all'estero che hanno già votato e hanno già votato con il vecchio quesito, una questione sulla quale si sta cercando naturalmente una soluzione. A te. Grazie a Simone Spezia. Intanto però in queste ore il dibattito va avanti, allora sentiamo di cosa si discute. Contrari al nucleare, i promotori del referendum non negano la loro posizione netta, e a chi dice loro che si tratta di una posizione ideologica non le mandano a dire. Vogliono che sia chiaro un doppio concetto: il nucleare non serve ed è pericoloso e in più costa tantissimo. Ci spiega così Angelo Bonelli, presidente nazionale dei Verdi. Ma noi Verdi voteremo e chiederemo a tutti i cittadini di votare sì al quesito referendario per fermare il nucleare, innanzitutto perché non esiste alcuna tecnologia perfetta che possa metterci al riparo dal rischio radioattivo. Inoltre l'energia nucleare è un'energia costosa, infatti non esiste nessun programma nucleare al mondo che non sia pagato dallo Stato e quindi dai cittadini. E in ultimo la gestione delle scorie radioattive è un problema irrisolto, drammatico, che rischia di gravare e determinare insicurezza nei territori e nella popolazione. Ma i sostenitori dell'energia nucleare la pensano diversamente. Davide Tabarelli è presidente di Nomisma Energia. Sentiamo. Il pericolo qua è che si tenda a considerare il problema energetico come molto facile. È un problema che può essere affrontato tranquillamente solo ed esclusivamente con le energie verdi, che fra l'altro invece a mio parere possono fare poco. È necessario invece puntare un po' su tutto, con la consapevolezza che se non si fa nucleare si fa più gas che viene da aree un po' così instabili, oppure si fa più carbone che ha alte emissioni di CO2. Così dunque sul nucleare, ma come sentivate dai nostri titoli mentre si discute dei prossimi referendum, sembra profilarsi già un altro appuntamento. L'aveva promesso che l'avrebbe fatto dopo le amministrative, il ministro per la semplificazione Roberto Calderoli ha mantenuto la parola aprendo un nuovo banco di prova per la maggioranza. Parliamo, come sentivate, del trasloco dei ministeri. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Calderoli accelera dunque sui ministeri al nord. Il responsabile per la semplificazione ha depositato infatti questa mattina all'ufficio centrale elettorale della Cassazione la richiesta per una proposta di legge sulla territorializzazione dei ministeri e delle altre amministrazioni centrali. La raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare partirà, come ha annunciato Calderoli, da Puntida il 19 giugno. Servono almeno 50.000 firme. Dalle parole ai fatti si potrebbe definire l'iniziativa del ministro della Lega. Il giorno dopo il vertice di ancora in cui il Carroccio ha ottenuto da Berlusconi l'impegno per la nascita al nord di uffici di rappresentanza altamente operativi di alcuni ministeri. Secondo altre interpretazioni, il passo odierno della Lega non è altro che un modo per fare ulteriori pressioni sul Premier e su Tremonti affinché mettano mano alla riforma fiscale, strada questa, secondo Bossi, obbligata per recuperare i consensi persi alle amministrative. Soluzione però bocciata ieri da Tremonti, che ha confermato l'impegno del governo per il pareggio di bilancio per il 2014. E da Roma è tutto. Grazie anche Vincenzo Miglietta, noi voltiamo pagina. È stato arrestato su richiesta della DDA di Milano Angelo Dario Scotti, vicepresidente del CDA di Riso Scotti Energia, amministratore delegato di Riso Scotti S.P.A. L'inchiesta riguarda un traffico illecito di rifiuti, l'ordinanza di arresti domiciliari riguarda altre tre persone ed è stata emessa dal GIP di Milano Stefania Donadeo. E allora parliamo proprio di reati ambientali, perché se la Campania arresta la regione maglia nera per l'ecomafia, in crescita è la Lombardia. Pensate che solo in tema di rifiuti illegali quelli sequestrati quest'anno coprirebbero tir lunghi quanto l'autostrada del sole. Il rapporto Ecomafie è stato presentato questa mattina, tutti i dettagli da Alessandra Schepisi. Sì, un business che vale quasi 20 miliardi di euro l'anno, con oltre 30.000 illeciti accertati nel 2010, 3,5 ogni ora. Questa è la fotografia dell'illegalità ambientale scattata da Legambiente nel suo rapporto, 1170 chilometri, quasi quanto l'autostrada del sole, il percorso che 82.000 tir e carichi di rifiuti potrebbero coprire, una interminabile autocolonna immaginata sommando i quantitativi di rifiuti sequestrati nel 2010, 2 milioni di tonnellate che rappresentano però ancora solo una parte di quello che potrebbe venire fuori dal traffico illegale. Altro capitolo, l'abusivismo edilizio, con oltre 26.000 nuovi immobili stimati, una vera e propria cittadina illegale con 18.000 abitazioni costruite ex nove. Poi le frodi alimentari, il racket di animali, furti di opere d'arte. Campania sempre in testa alla classifica, seguita da Calabria, Sicilia e Puglia, ma crescono gli illeciti nel nord-ovest e soprattutto in Lombardia, che si piazza al sesto posto per le infrazioni sul ciclo dei rifiuti. E da Roma è tutto. E grazie anche ad Alessandra Schepisi. A Roma restiamo, si annuncia una puntata di anno zero di questa settimana non facile. Michele Santoro, sancito come sapete l'addio alla RAI, aveva infatti annunciato per oggi una conferenza stampa. L'incontro con i giornalisti non ci sarà, lui parlerà invece in diretta video. Andrea Viali. Sì, è così Anna, Michele Santoro ha fatto sapere che saluterà gli ascoltatori e probabilmente dirà anche la sua sull'addio alla RAI nell'anteprima dell'ultima puntata di Anno Zero che andrà in onda giovedì sera. Stamattina, come dicevi, era prevista una conferenza stampa per un bilancio di fine stagione negli studi RAI di via Teulada, ma è stata cancellata dall'azienda, forse per non alimentare nuove polemiche e per non sottolineare troppo i successi di ascolti ottenuti nell'ultima stagione dal conduttore, con il quale ieri è stato ufficializzato il divorzio. È stata una separazione consensuale, sappiamo che arriva dopo un lungo contenzioso. A Santoro andrebbe comunque una buona uscita di 2 milioni di euro e per lui si parla anche di un molto probabile passaggio alla 7, per ora sono soltanto voci che comunque hanno fatto registrare un forte rialzo in borsa stamattina per i titoli di Telecom Italia Media, che è la società che controlla la 7, Anna. Grazie, anche Andrea Viali. Bene i consumi d'aprile, per la prima volta da 12 mesi sono i dati di Confcommercio, dopo la contrazione di marzo si segnala ad aprile un più 1,1%. A pesare il mercato dell'auto, al netto delle autovetture, infatti, il mercato si è portato sul valore più elevato degli ultimi 2 anni. Si sta aprendo in questi minuti il vertice straordinario dei ministri dell'agricoltura europei per le contromisure agli effetti sui consumi del batterio Escherichia coli. Scagionata la soia, si torna a cercare la causa, mentre in Germania i morti sono saliti a 22. Ma cosa c'è dietro tanti annunci poi rivelatisi sbagliati? Andiamo in Germania da Beda Romano. Sì, buongiorno. Tanti annunci, la causa non è ancora certa. Perché la Germania fatica così tanto e mette così in difficoltà gli altri paesi europei? Ma credo che la situazione sia particolare, evidentemente. Non è facile per chiunque cercare di capire le origini di questa infezione batteriologica, e quindi i tedeschi hanno evidenti difficoltà. Credo che ci siano però due aspetti che probabilmente complicano le cose, complicano le cose sia per la Germania che per i propri vicini, che per i vicini europei. Il primo aspetto è che questo paese è un paese federale, dove la sanità è un compito regionale. Questa infezione batteriologica riguarda almeno tre regioni del paese: la città-stato di Amburgo, la Bassa Sassonia, lo Schleswig-Holstein e probabilmente anche Brema. E quindi negli ultimi 10 giorni tutte le istituzioni pubbliche di queste 4 regioni hanno fatto conferenze stampa, parlato al pubblico, dato interviste, con il risultato che c'è stato molta cacofonia. A questo naturalmente si aggiunge il fatto che anche il governo federale ha un proprio ministero per la salute. E insomma, troppi a parlare. Troppi a parlare e troppi a dare indicazioni per certi versi contraddittorie. E poi credo che ci sia un secondo aspetto che è un po' più un aspetto sociale e culturale tedesco. La Germania detesta le incertezze e questo è un momento di grande incertezza. Non riescono a capire dove proviene questa infezione batteriologica e nella totale incomprensione di questo mistero il paese ha evidenti difficoltà a gestire l'incertezza. Quindi ci troviamo in una situazione in cui, come dicevo prima, tutti parlano e non si sa granché su quello che sta avvenendo, e naturalmente ci sono le pressioni dei giornali perché si trovi rapidamente una soluzione. Questo fa sì che in più di una circostanza sono stati lanciati degli allarmi che poi si sono rivelati inesatti. E grazie a Beda Romano. E intanto, dicevamo, mentre si aspetta, si fanno però i conti. Solo in Italia Coldiretti calcola perdite per 100 milioni di euro. Ma sentiamo cosa si aspetta proprio la Coldiretti dal vertice che, dicevamo, sta iniziando dei ministeri dell'agricoltura europei. Nelle parole del presidente Sergio Marini, l'ha intervistato Romolo Napolitano. Noi pensiamo che si arrivi a un centinaio di milioni, questi sono i danni per gli agricoltori italiani legati alla questione Escherichia coli. Sicuramente i danni ci saranno anche nei prossimi giorni, perché è evidente che il danno è legato a un calo dei consumi e a una diminuzione delle esportazioni, sia in Europa sia per esempio in Russia. Oggi c'è la riunione dei ministri dell'agricoltura di tutta l'Unione Europea. Cosa vi aspettate da questo incontro? Ci aspettiamo innanzitutto che ci sia una sollecitazione delle autorità tedesche a risolvere il problema con un attimino più di efficacia, direi, perché qualche ritardo sicuramente nella gestione di questa emergenza c'è stata, cioè qualche analisi in più e qualche dichiarazione in meno i tedeschi la dovevano fare. In secondo luogo ritengo che si prenderanno delle decisioni per in qualche maniera risarcire gli agricoltori europei, soprattutto quelli mediterranei. Qual è il consiglio che si sente di dare ai consumatori italiani, ai consumatori di verdure? Il fenomeno è chiaramente collocato dentro quella realtà del nord della Germania, per cui gli italiani possono stare veramente tranquilli. Io gli consiglio di comprare prodotto comunque italiano, sull'ortofrutta c'è sempre obbligatoriamente l'etichetta, per cui basta leggere l'etichetta e comprare un prodotto la cui origine sia quella nazionale. Le 13:18, le notizie di GR24, si voterà per il nucleare, la Corte Costituzionale ha deciso all'unanimità, si attende solo la conferma ufficiale della decisione. 12 miliardi di euro il fatturato delle ecomafie, è arrestato Angelo Dario Scotti, vicepresidente Riso Scotti Energia. La Lega avvia una raccolta di firme per un referendum per trasferire i ministeri al nord. Santoro non parla e annuncia, dirò tutto giovedì ad anno zero. Scommesse, è giusto che a pagare siano le società? Era questa la domanda che vi facevamo questa mattina nel nostro sondaggio. Ha risposto di sì il 60% dei nostri ascoltatori, no il 40%. E allora ripartiamo da qui. Nel frattempo la Serie B e la Lega Pro si sono costituite oggi parte offesa nella vicenda calcio scommesse, mentre la giornata di un nuovo interrogatorio per il medico odontoiatra Marco Pirani, ritenuto una delle menti. Oggi è il giorno della verità per Marco Pirani. Davanti al procuratore capo di Cremona, Roberto Di Martino, il dentista arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulle partite truccate, dovrà rendere conto delle dichiarazioni fatte la scorsa settimana nell'interrogatorio di garanzia. Dovrà cioè circostanziare le presunte combine di 3 partite di Serie A dello scorso campionato: Fiorentina-Roma, Lecce-Cagliari e Genoa-Lecce. Davanti al GIP Guido Salvini è invece la volta del commercialista Manlio Bruni. Nel suo studio, secondo l'accusa, si tenevano le riunioni degli scommettitori bolognesi, tra i quali Beppe Signori, che sarà ascoltato domani. Dalle intercettazioni intanto emergono sospetti anche su un altro match, Milan-Bari, del 13 marzo scorso, anche se gli investigatori ritengono faccia parte del capitolo millanterie. Secondo fonti vicine al bookmaker austriaco Sky Sport 365 sarebbero 10 le partite di Serie A su cui si sono registrate scommesse anomale. E mentre l'Albino Leffe con una nota si dichiara estranea a fatti incresciosi, Serie B e Lega Pro hanno deciso di costituirsi parte offesa nel procedimento. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restando alle inchieste giudiziarie, Enrico Bondi, amministratore delegato di Parmalat, è stato sentito questa mattina come persona informata dai fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'operazione che ha portato Lactalis a detenere circa il 29% del gruppo di Collecchio. È la seconda volta che Bondi viene sentito in procura a Milano. Lo Yemen sempre più una polveriera. Torniamo all'estero. Nuovi combattimenti sono scoppiati nella notte nel sud del paese, nella regione considerata roccaforte di Al-Qaeda. Secondo alcune fonti, la città di Taiz, a sud di Sana'a, sarebbe nelle mani dell'opposizione, ma intanto arrivano notizie in anonimato dagli Stati Uniti che parlano di condizioni di salute difficili per il presidente yemenita Saleh. Insomma, cosa si prospetta? Lo chiediamo all'inviato del Il Sole 24 Ore, Alberto Negri. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, la situazione in Yemen è quanto mai confusa. In primo luogo è legata al rientro meno del presidente Saleh. Questo rientro, date anche le notizie che vengono dagli Stati Uniti, ma soprattutto per l'opposizione della stessa Arabia Saudita che lo ospita, pare quanto mai improbabile. È facilmente credibile che insomma Saleh resti all'estero e quindi lasci il campo libero all'opposizione. Ma quale opposizione? È un'opposizione molto confusa, molto vasta, molto eterogenea. Ci sono gli studenti dell'università che naturalmente hanno le istanze che hanno tutti i giovani che sono stati protagonisti della primavera araba, cioè cambiare i regimi, cambiare il sistema di governo. E poi ci sono le tribù che hanno avuto un ruolo decisivo nello sbalzare dal potere Saleh, in qualche modo nel metterle in difficoltà. E questi giochi tribali sono quelli che alla fine quasi sempre hanno condizionato la vita dello Yemen. Un paese che peraltro presenta molti volti diversi, un paese che è diviso da nord e sud, tra lo Yemen più guerriero settentrionale e lo Yemen del pane cosiddetto, lo Yemen economico del sud legato anche all'estrazione del petrolio e del gas. Insomma, ricomporre i vari pezzi di questo paese non sarà assolutamente facile. Insomma, quel che è certo è che la rivolta continuerà, un po' meno quale potrebbe essere l'alternativa. Ma certamente l'alternativa è assai difficile per ora da individuare, soprattutto in un paese, come si diceva prima, dove agiscono anche spinte terroristiche preoccupanti, perché Al-Qaeda nel Maghreb ha trovato nello Yemen, che è uno stato quasi semifallito in qualche modo, terreno fertile per porre delle basi. In un paese dove si diceva prima, oltre alle divisioni tribali, ce ne sono di etniche e religiose, c'è uno Yemen settentrionale che e quindi è molto complicato, insomma. È uno sud sunnita. Insomma, una situazione assai complessa in cui giocheranno comunque una partita importante i sauditi e anche ovviamente gli americani. E grazie ad Alberto Negri. Nel frattempo in Libia invece anche questa mattina nuovi pesanti bombardamenti. Questa mattina intorno alle 11 sono scoppiate 4-5 bombe a distanza ravvicinata. È il racconto del vicario apostolico di Tripoli, Monsignor Giovanni Martinelli, sui bombardamenti di stamane. Il vescovo di Tripoli parla di bombardamenti diventati negli ultimi giorni sempre più aggressivi e intensi. Torniamo in Italia, torniamo alla cronaca che ci porta a Genova con un nuovo scontro tra bande sudamericane. All'assalto dei passanti come prede da azzannare, picchiati e rapinati, il branco era composto da ragazzi, alcuni dei quali minorenni, radunati attorno alla banda dei Los Diamantes, una delle gang giovanili sudamericane che da anni spadroneggia in alcuni quartieri popolari di Genova. Nel gruppo anche i ragazzini venuti dal Maghreb, uno dei quali in particolare insegnava agli altri le tecniche di assalto praticate nelle banlieue parigine. A febbraio i primi arresti. In queste ore i poliziotti della squadra mobile hanno fermato altri due diciottenni, un ecuadoriano e un paraguaiano, ritenuti responsabili di alcuni raid compiuti in vari quartieri cittadini. In un caso un anziano era stato picchiato con ferocia e rapinato nel portone della sua abitazione. Quello delle gang dei Latinos a Genova è un fenomeno che da tempo suscita allarme tra processi di integrazione problematici e questioni di ordine pubblico. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. E da Genova a Milano è tutto fermo per il progetto della Grande Brera, mancano i soldi ed è finito l'entusiasmo di poco più di un anno fa per raggiunto accordo tra tre ministeri, ricorderete Difesa, Ricerca e Beni Culturali, che dopo 35 anni di attesa prevedeva il trasferimento dell'Accademia di Belle Arti nella ex caserma di via Mascheroni. Non si è fatto nulla, sentiamo Stefano Pizzi, prorettore dell'Accademia di Belle Arti di Brera, al microfono di Adriana Fracchia. C'era stata la volontà da parte di Bresca di appianare, diciamo così, il contenzioso che c'era fra i vari ministeri, cioè Difesa, Beni Culturali e Ricerca, relativamente alla nostra questione. E si era trovata la soluzione della caserma Mascheroni. Fresca era convinto di riuscire, sempre tramite il capo del governo, di trovare una sponsorizzazione, la quale sarebbe dovuta ammontare intorno ai 50 e passa milioni, che poi sarebbero lievitati, e questi soldi non ci sono. E dunque non si farà nulla? E quindi per ora siamo fermi. Siamo fermi e con la crisi che c'è, secondo me, dobbiamo solo aspettare o che cambi il vento internazionale o ci sia una volontà politica di risolvere questo problema. Parlavamo delle inchieste sul calciomercato, torniamo al calcio ma per parlare d'altro, perché la nazionale di Cesare Prandelli chiude nel frattempo la stagione stasera a Liegi. Sicuramente noi italiani siamo dei autolesionisti, cioè ci facciamo del male. Impareggiabile Trapp, ci mette un attimo a tirar fuori il succo di quell'amara spremuta di football e credibilità che risponde al nome di calcio scommesse. Sarà che, vista da lontano, da quella Dublino da dove guida la sua Irlanda, la palude in cui ci siamo invischiati appare chiara come un ruscello di montagna. Aria fresca porta, a proposito, la nazionale di quel Prandelli che di Trapattoni fu allievo e del suo vice Tardelli compagno di squadra, nella Fanta Juve anni 80 targata Boniek e Platini. Prandelli punta su piedi buoni, anche stasera in campo Pirlo, Montolivo e Giuseppe Rossi, e gruppo. Se qualcuno vuol vederci dietro la lezione del Trap, beh, sicuro non andrebbe lontano dal vero. Da un punto di vista umano, in sei anni che l'ho avuto, mi ha veramente trasmesso tante cose che riporto tuttora. Ha sempre messo in primo piano l'aspetto umano. Sarà un'emozione straordinaria, veramente. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle 14 vi ricordo a tempo di sport, nel frattempo ora invece c'è Italia in controluce. Danna Migliorati, ancora una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.